Fermo un binario, vorrei raggiungerti ancora. Ma so che il treno non passerà, no, non passerà mai. È uno scenario senza luci, ci divora. Questo buio non passerà, no, non passerà mai. Ma come fai? Come cazzo fai? A non chiedere come stai, a lasciarmi solo nei guai. Ma come fai, come cazzo fai, a non chiedere come stai, a lasciarmi solo nei guai. Quanto eravamo diversi, quanto tempo ci pensi? Mo non ti vedo più, né ti sento più, è troppo che ci siamo persi. Non so dove sei, non so con chi sei, ti mando un bacio, ti salutano i miei. Chiuso in un bar, mi ricordo dei giorni di sesso e di videogame. Tutto in quella stanza, chi ci vivrà adesso? Mi ha salvato questa distanza, perché non ti vedo spesso. Io non sono più lo stesso, mo la vita la prendo di petto. E dopo che quel treno l'ho perso, ho fatto il filtro con il biglietto. Ma come fai? Come fai? Come cazzo fai? Come cazzo fai? A non chiedere come stai? A lasciarmi solo nei guai. Ma come fai? Come cazzo fai? A non chiedere come stai? A lasciarmi solo nei guai. Ma sei rimasto un chiodo fisso? Chissà dove sei ora? Nuotando in questo abisso, mi torni in mente ancora. Sembrava tutto scritto, poi tutto è malora. Ti sei persa nel tragitto, senza dire una parola. Sei rimasto un chiodo fisso? Chissà dove sei ora? Nuotando in questo abisso, mi torni in mente ancora. Sembrava tutto scritto, poi tutto è malora. Ti sei persa nel tragitto, senza dire una parola.